Ben ritrovati in studio, io sono Martina e oggi parliamo di una realtà, il Circo Sottosopra, con Maria Grazia e Marco. Con piacere avervi qui in studio. Ciao! Allora, oggi vogliamo presentare una nuova iniziativa, Scuola di Circo Teatro Diffusa. Spiegateci un po'. Noi abbiamo questa scuola di circo, Sottosopra, dal nome del progetto educativo per bambini, che si sposta nei quattro quartieri di Bologna, una caratteristica nomade, viaggiante, itinerante. Inizierà a fine settembre con delle giornate di prova gratuite. La possibilità chiaramente di venire a esplorare quello che proponiamo. Abbiamo fasce di età dai 3 ai 13 anni, divise per gruppi a seconda appunto della grandezza dei bambini o delle specifiche, quindi ci sono corsi un po' più tecnici, altri un po' più legati al gioca circo, e siamo dal lunedì al giovedì in vari quartieri di Bologna. Tornando alla scuola di circo teatro diffusa dai 3 ai 13 anni, diteci un po' le attività che offrite, i corsi. I corsi sono il lunedì al Navile, a leggere strutture, e c'è la fascia 3-5 anni dalle 16.50 alle 17.50, dai 6 ai 10 anni dalle 17.50 alle 18.50. Giovedì quello per i grandi, 9-13 anni, a San Donato San Vitale, Piazza dei Colori, casa di quartiere Croce del Biacco, che è adatto non solo per i ragazzi ma anche per chi è interessato poi a rientrare nel nostro progetto di compagnia Sottosopra Junior, il quale portiamo avanti con i contributi di fondazioni, quartiere, regioni, perché con alcuni dei ragazzi abbiamo proprio stretto un legame, loro volevano mettersi alla prova e venire in scena con noi. Certo. Quindi abbiamo fondato questo progetto, creiamo con loro anche delle performance, spettacoli e facciamo delle piccole tournée. Come attività, che cosa offrite? Qui sulla locandina leggo giocoleria acrobatica ad esempio, diteci un po'. Ah sì, noi facciamo provare ai bambini e ai ragazzi tutte le arti circensi principali. Sì. Partiamo dalla giocoleria per poi esplorare il corpo libero, acrobatica a terra, e in alcuni punti riusciamo anche ad avere l'acrobatica aerea. La giocoleria esploriamo palline, foulard, clave, anelli, tutte le chi principali. Chi più ne ha più ne metta, sì, quindi. Gli equilibrismi, la sfera di equilibrio, come al solito, ha un grande fascino. Mimo. Cos'è che facciamo, Maria Grazia? Mimo e clownerie per noi, diciamo, un po' il collante di tutto, okay, l'apparato tecnico. Visto che noi ci siamo un po' autoinventati il circo per bambini sotto un approccio non proprio tecnico, ripeto, noi copriamo anche fasce d'età piccole, dove il lavoro della proposta didattica passa attraverso un gioco che è veicolato da storie, da musica e da performatività. Sono i tre elementi che ci contraddistinguono. Tutto viene fatto attraverso il ritmo e in modo spontaneo. La musica, sì, ogni musica veicola un'atmosfera che può essere appunto quella del viaggio, dell'intimità, oppure dell'esplosione, oppure della raccolta. A volte viene anche usata per calmare i bambini o per spronarli, quindi veramente in totale libertà, sì, di creatività, di creatività, però sì, allo stesso tempo con grande capacità da parte dell'operatore di reagire a quello che è la risposta del bambino alle nostre proposte. Le storie ad esempio servono per mantenere l'attenzione, per portarli in mondi immaginari dove noi stessi non siamo solo insegnanti, non c'è mai un approccio frontale ma c'è un approccio circolare e noi siamo sempre un po' in scena, infatti noi ci chiamiamo operatori, in modo tale da coinvolgerli proprio immaginativamente, i bambini. Cosa fondamentale, io ricordo che le prove sono gratuite, giusto? Sì, sono, esatto, gratuite, e sono dal 29 settembre al 2 ottobre. Se ci volete dare dei contatti per cercarvi sui siti internet, i contatti sono circosottosopra@gmail.com, circosottosopra sia Facebook che Instagram. Vi aspettiamo per provare tutte queste attività. Ringrazio Marco e Maria Grazia. Grazie, grazie a te.